9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 30 di giugno. Molti mi chiedono spesso, io non rispondo mai a dire la verità, ma in realtà questi squilli di tromba che cosa sono? Ecco, questi squilli di tromba, per chi non è avvezzo alla vita militare, si chiamano TAPS, sono appunto quelli con i quali nei diverse forze armate si danno i segnali. Questo in particolare appartiene all'esercito degli Stati Uniti, si chiama Colors e sono gli onori alla bandiera. Siccome qualcuno mi chiedeva sempre ma perché questo? Questo è perché è collegato a mie antichi ricordi con un vecchio amico che non c'è, di cui porto sempre la spilla sul bavero, e per questo ho scelto questo, così da ricordare. È morto in Iraq, si chiamava Mike, era una persona strepitosa, uno dei miei amici più stretti, uno che ha sacrificato la propria vita per la propria squadra di giovanissimi, e capisco che a molti sono cose che non evocano sentimenti, ma l'avevo conosciuto, ohimè, facendo a pugni tanti anni prima, quindi una storia un po' particolare, quindi io lo onoro a modo mio. Così, giovedì 30 di giugno, i protomartiri, e in questa giornata torniamo a parlare inevitabilmente di ciò che da giorni domina, cioè la manovra di rientro dei conti pubblici per azzerare il deficit entro il 2014, la manovra sui quali il ministro dell'economia Giulio Tremonti, dopo qualche tensione molto forte all'interno della maggioranza e del governo, si è aperto alla collegialità. Di questo lo abbiamo visto già ieri mattina, dedicandogli la puntata e chiedendoci se questa nuova apertura alla collegialità è un rito di fronte al quale in realtà maggioranza e governo alla fine saranno capaci di capire che non ci sono alternative tra Grecia che salta e crisi dell'eurodebito aperto da un anno e mezzo, oppure se invece è l'ennesimo passo avanti di una crisi evidente, di cui poi il voto nell'amministrativa e il voto nei referendum sono stati successivi passi avanti verso l'accelerazione di un problema interno molto grande che da più di un anno ha spaccato il centrodestra e lo ha reso meno coeso e meno credibile di fronte al loro stesso elettorato. Ma oggi parliamo di quello che allo stato attuale, dopo questo giorno e mezzo di confronto tra gli altri componenti del governo, a quello che è chiaro a quest'ora, la mattina del giovedì, della manovra di rientro, per capire diversi punti di vista di giornalisti e osservatori privilegiati che ne hanno seguito l'evoluzione, la preparazione, in questi giorni hanno anticipato sui loro giornali le diverse fasi di redazione di questa manovra, le prime 70 pagine che erano la versione originale di Giulio Tremonti, poi ne hanno registrato successivamente nelle ore e nei giorni l'adulizione, l'attutimento di fronte alle richieste e le osservazioni degli altri componenti della maggioranza. Ci chiederemo insieme a loro qual è la loro impressione allo stato attuale. Per capirla meglio bisognerà ancora aspettare qualche tempo, come è evidente. Avviso tutti che naturalmente prima della passata in attuazione della legislazione bisogna aspettare le leggi di stabilità anno per anno. Ci siamo abituati ormai dal 2008 a questa doppia tornata, che è quella prima estiva per la messa in regola dei saldi triennali con l'Europa e poi per la traduzione in quelle che si chiamavano leggi finanziarie e oggi si chiamano leggi di stabilità. Però complessivamente tentiamo un primo bilancio, una prima analisi di quel che resta dei provvedimenti di contenimento della spesa, dell'accantonamento allo stato attuale, certo legge delega, ma insomma degli interventi in materia fiscale e di ciò che ai nostri osservatori, i nostri ospiti, fino a questo momento compone il primo giudizio complessivo e su alcuni capitoli di quello che hanno scritto in questi giorni sui giornali. Abbiamo con noi innanzitutto Roberto Petrini, giornalista di Repubblica. Io di questo molto ringrazio. Buongiorno Roberto Petrini. Buongiorno Oscar Giannino e a chi ci ascolta. E buongiorno a Mariano Bella, lo conoscete, direttore dell'ufficio studi della Confcommercio, uno dei più attenti analisti dell'evoluzione dell'economia italiana e uno dei più attenti analisti, questa è la radio di Confindustria, ma io ci tengo sempre a richiamarlo e invitarlo spesso perché oltre all'export manifatturiero che tira, qui abbiamo un enorme problema da anni, che è la stagnazione della domanda interna, dei consumi e di tutto ciò che può alimentarli, innanzitutto il reddito disponibile dei lavoratori dipendenti a bassa qualifica, che è la componente del reddito italiano più penalizzata in tutti questi anni. Quindi grazie anche a Mariano Bella, buongiorno. Buongiorno. Allora, Roberto Petrini, il giornale per cui scrivi ovviamente ha due punti di vista, se posso richiamarli così. Il primo è ovviamente quello molto critico sulla distanza tra ciò che viene annunciato e ciò che veramente è stato fatto in questi anni. Non potrebbe che essere diversamente per chi segue il lavoro che fate, i vostri editorialisti, il vostro servizio giornalistico. Dall'altra parte però, contemporaneamente, ieri per esempio Libero attaccava da questo punto di vista Tremonti un atteggiamento che non è di giustificazione, ma che in qualche misura è di qualche comprensione verso ciò che Tremonti tenta di fare rispetto poi alle obiezioni, alle osservazioni, alle elisioni dei suoi colleghi di maggioranza. Ma al di là di questo, il suo primo giudizio per quello che attualmente abbiamo capito e compreso di questa manovra pluriennale? Oscar, consentimi di non fare il sociologo e di non commentare il mio giornale, naturalmente sì. naturalmente ci scrivo e condivido assolutamente tutto quello che scrive, e mi sembra che l'interpretazione che abbiamo dato della manovra e del coverage che facciamo di Giulio Tremonti sia tra i migliori sul mercato. Se quanto alle mie personali osservazioni da cronista che segue da tanti anni la manovra finanziaria, posso dirti quali sono le mie impressioni. La mia impressione è che sostanzialmente si tratta di una manovra piuttosto tradizionale. Se andiamo a vedere quali sono i tagli che poi verranno effettuati nel 2013 e nel 2014, c'è chi dice che subiranno, gli italiani li subiranno nel momento in cui ci sarà un altro governo e non più questo governo, però c'è anche da dire, insomma, che il pareggio del bilancio l'Europa ce lo impone per il 2014 e quindi oggi dobbiamo muoverci in quella direzione. Ebbene, se andiamo a vedere i tagli troviamo la stessa solfa, le stesse partite, gli stessi capitoli di spesa ai quali siamo abituati da tanti anni, cioè pensioni, sanità, pubblico impiego, niente di nuovo sotto il sole. Se invece andiamo a vedere la riforma fiscale, che è molto più vaga, insomma, nel suo perimetro, perché come dicevi giustamente tu, si tratta di una legge delega che verrà spalmata poi e implementata nel corso degli anni, beh, lì ci sono delle novità, però a me sembrano delle novità piuttosto costose e devo dire non di facile raggiungimento. Posso chiederti, si è tanto parlato nelle settimane precedenti del rilancio della crescita, il governatore della Banca d'Italia, Confindustria stessa, non hanno fatto altro tutti che richiamare l'assemblea di Confcommercio, non hanno tutti altro fatto che richiamare in maniera convergente la necessità che in questo intervento la componente a sostegno della crescita fosse almeno altrettanto presente dell'energia che bisogna mettere per raggiungere il pareggio di bilancio. Da questo punto di vista, secondo te? Beh, caro Oscar, da questo punto di vista io penso che noi la pensiamo in modo diverso. Tu saresti, immagino, convinto che un taglio delle tasse possa sostenere la crescita, però a questo punto questo taglio delle tasse non c'è e arriverà molto in avanti nel tempo. Io sono meno convinto che un taglio delle tasse possa sostenere la crescita, sono convinto che invece un aumento dei consumi e un dosaggio di opere pubbliche e di spesa pubblica, se fatto in modo naturalmente ragionevole, possa aiutare la crescita. Però entrambi questi elementi mi pare che manchino all'appello, perché anche questo famoso FAS, no? Che sembra un po' un fantasma, se ne lamentano sempre i governatori della regione, le varie categorie, eccetera, ma non si capisce mai di che cosa si tratta. È un fondo di 65 miliardi che Prodi e Padoa-Schioppa avevano giustamente incastonato nel bilancio dello Stato, no? Della finanziaria, cioè non del SERF, ma del mare, del profondo degli abissi, insomma, della finanza pubblica, e quindi rimaneva ben saldo coperto dalla fiscalità generale, e pian piano nel corso degli anni, insomma, i soldi sono andati alle quote latte e a finanziamenti vari, alla copertura delle quote della sanità e tutto il resto, insomma, non sto qui ad elencarli. Ecco, anche quello sarebbe stato un fondo destinato allo sviluppo e alla crescita, che invece pian piano è stato eroso negli anni. Quindi credo che questa dinamica sviluppo, questa necessità di perseguire lo sviluppo da questa finanziaria, insomma, viene un po' elusa, se non per il fatto che comunque una certa politica di rigore in qualche modo può consentire può essere una delle possibilità di sviluppo, insomma, per un paese. Insomma, è chiaro che nessuno si illude che si possa fare a meno del rigore. Ora, un altro, giustamente hai richiamato, per così dire, diversi approcci teorici alla questione. In effetti, secondo me, cioè mi dicessero Oscar Genio diventa ministro, io declinerei, non ci sono molto migliori di me, ma in effetti io punterei il dito contro il fatto che comunque siamo in presenza di un quadro tendenziale di aumento molto significativo sia della spesa pubblica nel prossimo triennio, sia delle entrate, perché qui si parla di aumento di entrate complessivi per altri 93 miliardi di euro, di cui solo 25 miliardi di euro a copertura del deficit, gli altri 67 sono a copertura della maggior spesa corrente, rispetto alla quale poi c'è la necessità di individuare questi altri 40, 42, 43 miliardi per azzerare il deficit. La mia opinione è che, in quanto abbiamo visto della manovra che tenta di estendere a tutta tutta la pubblica amministrazione centrale, come c'è la dei ministeri, spending review, non più tagli lineari, e dice però o la spending review è in grado di vedere i ministri che cooperano attivamente, oppure si fa un intervento coattivo per ridurre del 3-5% poi gli ammontari 2010 e 2011 negli anni successivi, e tenta poi di estendere per la prima volta anche il controllo dell'aumento della spesa corrente per l'acquisto dei beni intermedi, cioè per le forniture, all'intero blocco della pubblica amministrazione e in particolare alla sanità. Io ho detto in questi giorni: state attenti, perché questo è un meccanismo secondo me necessario, perché le spese per acquisti della sanità sono aumentate del 50% negli ultimi 6 anni e sono la metà dei 140 miliardi delle spese di forniture totale della pubblica amministrazione italiana. Però attenti, perché questa roba impatta col decreto attuativo della finanza regionale dei costi standard sanitari voluti molto da Calderoli, dalla Lega e da Tremonti stesso, e le regioni potranno dire: ragazzi, abbiamo appena messo nero su bianco una norma che ci dava uguaglianza di perimetro rispetto alle risorse attuali, e adesso ci proponete un meccanismo coattivo, sia pur compartecipato, per ridurre del 3% e 5% l'ammontare. Su questo io non riesco a capire come si possa essere convergenti, però io direi che lì c'è molto da recuperare, e in effetti le risorse per bloccare in termini nominali, quindi significa far diminuire in termini reali la spesa corrente, non farla aumentare di altre decine e decine di miliardi di euro in questi 3 anni, io li dedicherei effettivamente a minore pressione fiscale. Invece la delega fiscale è ancora a invarianza di gettito, come sappiamo. Su quello ci sono due prospettive effettivamente diverse. Quindi da questo punto di vista, a me dispiace doverlo dire, certo c'è l'azzeramento del deficit messo in obiettivo con oltre 40 dei 43 miliardi nel 2013 e 2014, però per chi da 17 anni ha chiesto il voto agli italiani dicendo meno tasse, siamo alle solite, perché per il momento questa roba oramai esce definitivamente, è un libro dei sogni per la politica italiana, o quantomeno per il centrodestra, non per il centrosinistra, che non l'ha mai detto. Mariano Bella, allora, dal punto di vista invece di chi si preoccupa esplicitamente per avere sostegni ai consumi e alla domanda interna, come ha detto anche Roberto Petrini, e ha a mente sia la necessità di alzare la produttività della distribuzione italiana, di tutto ciò che sappiamo essere legato al vostro mondo, col giudizio complessivo di quello che abbiamo capito di questa manovra, qual è? Io devo fare una riflessione con grande responsabilità e con grande realismo. Cioè, la situazione purtroppo è ancora di emergenza nel nostro paese, e quindi bisogna accettare anche dei provvedimenti che francamente una persona come me non ritiene accettabili, come la mancata indicizzazione delle pensioni, che tutto sommato insomma andrebbe fatta in modo radicalmente diverso. Certo, se devo pensare a questa finanziaria come una finanziaria per lo sviluppo, mentirei, non è una finanziaria per lo sviluppo, è una finanziaria per trovare i soldi per arrivare al 2014 con zero deficit e cominciare da lì a pensare alla riduzione del debito in rapporto al PIL secondo i dettami della Commissione europea. Però al di là di queste valutazioni generali, e dal punto di vista realistico, anch'io penso, se fossi io che cosa farei? Farei qualche cosa di molto simile, cioè tagliare dove è possibile anche l'idea, ecco, di intervenire sui costi della politica. Io l'avrei fatto, noi l'avremmo fatto in modo diverso, probabilmente abbiamo un problema di livelli di governo, di distribuzione dei ruoli e delle responsabilità, distribuzione che è estremamente confusa e crea poi quella impasse decisionale quando il comune è contro la circoscrizione è contro la provincia non sa che fare con la regione e la regione con lo Stato centrale. Tutte le province ci servono? Boh, forse no. Comunque l'indicazione di ridurre i costi della politica mi sembra un'indicazione forte, e credo che il ministro Tremonti e la maggioranza siano orientati a andare avanti, e questo è un fatto positivo. Poi le solite cose tipo centralizzazione degli acquisti, lavorare meglio sulla Consip, la razionalizzazione dei servizi di pagamento dei dipendenti pubblici, si dirà sono piccole cose, si potevano fare prima. Secondo me sono cose importanti che servono per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione. Dopodiché questo solo nel lungo periodo avrà dei riflessi positivi in termini di produttività e di efficienza della spesa pubblica, però è una cosa che secondo me si poteva fare. Sulle liberalizzazioni abbiamo delle dichiarazioni di principio per cui noi suggeriamo cautela, mentre ecco quello che manca, quello che un pochino dispiace e fa pensare a un rinvio al 2013-2014, questa impressione credo l'abbiamo avuto un po' tutti, è che sul grande capitolo del fisco c'è la parola delega che per il momento mette una pietra e appunto ci fa pensare all'idea di rinvio. L'idea del rinvio non è una cosa magnifica in un momento difficile come questo, forse si poteva fare qualcosa di più e subito. La nostra visione sul fisco l'abbiamo espressa nei giorni scorsi, va benissimo la razionalizzazione, l'accorpamento, la riduzione dei regimi di favore perché non ci si capisce niente, però bisogna anche dire ai cittadini che se da lì recuperiamo 16-20 miliardi, quello è aumento della pressione fiscale attraverso una ridefinizione più precisa delle aliquote legali. Ecco, una parte di questi aumenti forse poteva essere o sarà auspicabilmente trasformata in una riduzione della pressione fiscale in un futuro prossimo. Ecco, noi almeno la interpretiamo così. No, io mi auguro che effettivamente, ove mai ci fosse il tempo in questa legislatura, mi permetta di dubitarne, Mariano Bella, di mettere mano davvero a un'opera seria, organica, di ridefinizione dei 160 miliardi che sono minori in caso dello Stato per i 476 diversi regimi di deduzione e detrazione, avendo in mente pochi soggetti prioritari a cui destinare, su cui concentrare davvero le deduzioni e detrazioni, cioè innanzitutto le fasce di reddito più basso, poi i carichi familiari, poi chi contribuisce di più alla crescita per internazionale impresa, eccetera, eccetera. Io dico che ci sono cose paradossali, cioè siamo arrivati al punto in cui Confindustria, trattino, che ha onorato il suo impegno insieme a tutte le altre associazioni datoriali, a tutti i sindacati, compresa la CGIL, stringendo l'intesa anche sulla questione delle intese aziendali, compresa la CGIL, quindi si chiude entrando la rivoluzione delle relazioni industriali italiane cominciata nel 2009 e lo ha fatto in pochi giorni con la CGIL che ha accettato, per me è una cosa storica, che dà il contributo allo scambio produttività più salario, rimettendo anche a posto l'eccesso di polemiche che erano venute sulla vicenda Fiat, che spero si adegui. Ma detto questo, quando Confindustria stessa dice levateci le cose a fondo perduto, sono 44 miliardi, e trasformiamoli in una parte almeno in crediti d'imposta solo per chi investe davvero invece che contributi a fondo perduto, e non si fa al volo, per me quella è un'occasione perduta. Quanto al fisco, c'ho qui una lettera di un nostro ascoltatore che ripropone un punto di vista che mi è caro, perché io sono il primo a dire lotta all'evasione, ma la lotta all'evasione i cui maggiori proventi, anche nel 2010 abbiamo incrementato il totale delle entrate passando da 715 a 722 miliardi di euro, l'abbiamo fatto tramite meccanismi come quello di Equitalia, molto criticati, a centrodestra sono costati anche bei voti, ma una testimonianza, qui c'è un nostro ascoltatore di Taranto, un medico libero professionista, dentista, categoria vituperata, che prima ci dice da quando ho iniziato la professione, mi sono impegnato eccetera, e poi dice lo scorso anno il mio fatturato ha subito un crollo verticale. Lavoro a Taranto, non sono un dentista generico ma uno specialista in una branca di odontoiatria, quindi il mio è un lavoro di nicchia. Ieri il mio commercialista mi ha detto che per la prima volta non sono né congruo né coerente. Avrei dovuto fatturare 26.000 euro in più. Quello che mi ha fatto salire i parametri è l'avere un assistente part time e due postazioni di lavoro invece che uno. Ho sbagliato ad averne due invece che una. Conclusione, dovrò dichiarare fittiziamente, mi dice il commercialista, 26.000 euro di fatturati in più, 26.000. E siccome quest'anno la situazione non sembra cambiare, la mia assistente perderà il posto di lavoro. È giusto questo? Ecco, io non so se la lotta all'evasione fiscale si debba fare così. Anzi, la mia opinione è che non bisogna farla così, perché questo ha degli effetti che sono non l'accertamento degli evasori, ma semplicemente colpire una parte che farà ancora meno crescita e meno occupazione. Noi qui di casi ne abbiamo a decine di migliaia documentate in questo senso. Non voglio dare un giudizio generalizzato sui sistemi usati dall'Agenzia delle Entrate e da Equitalia, però è certo che la fame di entrate non fa distinguere gli accertamenti e che questi aggravano solo una situazione, a mio giudizio, intollerabile dal punto di vista del diritto. Analisi di quello che abbiamo capito fino a questo momento della manovra per azzerare il deficit entro 3 anni, in attesa poi di capirla ancora meglio, e che poi a settembre ovviamente la prima attuazione annuale con la legge di stabilità ex finanziaria riapra un po' tutti i capitoli, tanto siamo abituati al fatto che avviene così. Allora, si è aggiunto a Roberto Petriniti, che abbiamo ascoltato di Repubblica, e a Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi della Confcommercio, Alessandro Barbera, giornalista della Stampa, che anche lui, come Petrini, ha seguito passo passo da settimane, da mesi, insomma, la condizione della finanza pubblica. Il primo giudizio che dai di questa manovra così come l'abbiamo capita dal punto di vista dell'azzeramento del deficit e della crescita, qual è, Barbera? È la manovra che ci chiede l'Europa, è la manovra, non so se è la manovra che ci chiedono i mercati, è di certo una manovra che sposta in avanti la soluzione o comunque i risparmi necessari a raggiungere l'azzeramento del deficit. Certamente è una manovra che sembra essere sul lato dei tagli alla spesa un po' più efficace, o comunque sembra voler essere un po' più efficace. L'idea di sostituire i tagli lineari con la spending review sembra andare nella direzione giusta. Certamente ha dei limiti e sono i limiti, secondo me, della maggioranza che l'ha approvata. Tremonti aveva promesso tagli dei costi alla politica, al momento sentiamo parlare di una riduzione dello stipendio ai ministri, fra l'altro del quale, sottolineo, non c'è ancora traccia nell'articolato. Non c'è un intervento, come invece io credo andava fatto, forte sulle municipalizzate, o comunque un qualche intervento che andasse in questa direzione. Non c'è alcun segnale sul fronte delle province, che è certamente una voce che andava sfrondata, e non c'è alcuna notizia per il momento della riforma fiscale, che effettivamente comincia a diventare, a forza di tagli, una priorità, perché se non si comincia a muovere sul lato delle aliquote, probabilmente di crescita nei prossimi anni ne vedremo poca. Petrini, si era parlato nei mesi precedenti, e poi questo ha avuto una linea di caduta nel fatto che Bersani, il segretario del PD, ha iniziato a invocare un'operazione di chiarezza sui conti pubblici. È stata la stessa espressione, mi ha colpito, che ha usato due giorni fa l'avvocato Luca Di Montezemolo, dicendo: mi pare che si sia perduta l'occasione per un'operazione verità sui conti pubblici. Chiedere un'operazione verità sui conti pubblici, dal tuo punto di vista, è giustificato anche in presenza di questa manovra? Cioè, che cosa significa? Significa non credere tanto al fatto che bastino queste risorse, oppure significa, visto che la crescita attesa sarà significativamente inferiore nei prossimi anni a quello che solo un mese e mezzo fa nella DEF il governo prevedeva per l'anno prossimo e per i successivi due, visto che stiamo sempre correggendo al ribasso la crescita, con la crescita così bassa che produrremo anche questi ammontari di finanza pubblica in realtà sono inadeguati. Ecco, se dovessimo spiegare a chi è a casa, dal tuo punto di vista, qual è l'operazione verità che a giudizio dell'opposizione manca, di che si tratta? Beh, questo bisognerebbe chiederlo naturalmente a Bersani. Quello che posso capire io è semplicemente un problema che si articola su due livelli. Il primo livello è quello contingente. Il NENS, che è il centro studi che fa riferimento sia a Bersani che all'ex ministro del Tesoro Visco, proprio nei giorni scorsi ha calcolato, ha cifrato la manovra non in 40-47 ma in 50-52 miliardi. Che cosa significa questo? Questo significa che questo tipo di manovra, un po' come dicevo prima, ha anche un forte impatto depressivo sulla crescita, e quindi naturalmente avremo meno crescita di quello che viene considerato nei documenti ufficiali del governo, quindi di conseguenza meno gettito, e di conseguenza la manovra, come viene cifrata in 2,3 punti del PIL, cioè circa 40 miliardi, potrebbe, a conti fatti, quando tireremo le somme nel 2014, non essere sufficiente. L'altro livello, diciamo che è il livello di grande confusione che in qualche modo regna nella politica economica. Perché siamo arrivati fino a questo punto? Cioè, perché siamo stati costretti a porci come obiettivo una manovra di circa 47 miliardi? Allora chiediamoci, il 2,3 naturalmente è segnalato dal vecchio documento di che una volta si chiamava il DPF, cioè il documento pluriennale, diciamo, di programmazione. Naturalmente è sotto gli occhi di tutti e ha questa problematica a cui facevo riferimento prima, ma ricordiamoci anche della manovra in corso d'anno. La manovra in corso d'anno è una manovra che una volta si chiamava manovra bis, una manovra correttiva che per adesso sembra sia di 2-3 miliardi, non è comunque un intervento da poco. Siamo al livello di aver finanziato le spese per l'esenzione del ticket soltanto per i primi 6 mesi dell'anno con un decreto, il decreto mille proroghe di gennaio, e siamo stati costretti a fare una piccola manovra per rifinanziare l'esenzione dal ticket sulla visita specialistica, cioè una necessità primaria, a meno che non si voglia proprio, certo, no, avere un atteggiamento nei confronti proprio dello Stato sociale assolutamente negativo, e siamo qui a finanziare e rifinanziare. L'altro grande problema è un punto interrogativo che pone la Corte dei Conti, che pone l'Europa e che vediamo insomma all'orizzonte con una certa preoccupazione, e anche questa credo che sia la preoccupazione degli italiani consapevoli, ma metto tra questi anche il centro-sinistra e lo stesso Bersani. Ricordiamoci che il primo obiettivo del 2014, che è l'obiettivo di bilancio, non è di pareggio di bilancio, non è che il primo passo, non è un traguardo, ma è un punto di partenza, perché di lì a poi nei prossimi anni dovremo cominciare a intervenire sul debito pubblico, non più sul deficit. Fino ad oggi le regole stringenti erano sul deficit, cioè si doveva, come ormai sanno tutti, raggiungere il 3%, no? Il famoso parametro rispetto al PIL, il famoso parametro di Maastricht. Oggi invece l'Europa, proprio in queste settimane, il Parlamento europeo sta approvando definitivamente le norme, ci richiede di intervenire pesantemente anno dopo anno, e il primo check sarà fatto nel 2016, sullo stock, sul debito, quello che oggi è 120% del PIL. Beh, questo tipo di manovra ci costerà circa 40-45 miliardi l'anno. Mi sembra che di fronte a queste cifre non si possa fare a meno che chiedere, come dire, chiarezza, determinazione, una linea politica coerente che ci porti, che ci metta se non altro al riparo da quello che sta accadendo sui mercati internazionali, dove l'Europa rischia di fare la fine degli 11 piccoli indiani cadere l'uno dopo l'altro vittime della speculazione internazionale. Concordo molto su questo rischio più che mai aperto a un anno e mezzo dalla crisi greca. I tedeschi stanno facendo, per motivi di politica interna, come capita a tutti i paesi europei, però ci stanno facendo pagare un bel prezzo a tutti con l'aumento degli spread, perché la linea di non dire con chiarezza agli elettori che il salvataggio non significa dare aiuti a chi fa la cicala invece la formica, ma significa saper prendere le decisioni in tempo reale. Bisogna prendere un anno e mezzo fa sulla ristrutturazione del debito greco, sarebbe stato meno oneroso per i greci, per le banche francesi e tedesche piene di carta greca e per tutti noi che non saremmo stati esposti agli aumenti degli spread, perché i contribuenti italiani, irlandesi, portoghesi, spagnoli, tutta questa roba la pagheranno e la pagano, hanno già iniziato a pagarla. Questo è un problema di classe dirigente politica europea, secondo me inadeguata, innanzitutto voglio dirlo, tedesco e francese. Non significa difendere le follie fatte dalla Grecia prima e i problemi diversi che hanno Spagna, Portogallo, Irlanda e Italia, il nostro debito pubblico, però significa avere la consapevolezza che bisogna avere la capacità delle risposte giuste quando si creano crisi che solo inopinatamente, perché non si aveva abbastanza intelligenza, si consideravano impossibili. Il capitolo che manca su questo, sposo la filosofia di Roberto Petrini, per esempio, è quello delle privatizzazioni, che mancano del tutto. Io non mi illudo più che ci sia portata di mano una possibilità di cedere quote, non voglio dire il controllo delle maggiori pubbliche quotate in borsa, ma certo in questa manovra manca del tutto ogni riferimento alla parte di attivo pubblico considerabile, cedibile al prezzo di mercato, ancora di tutta la parte immobiliare pubblica. Non c'è alcuno riferimento agli oltre 400 miliardi di euro, stime rifatte al tesoro l'anno scorso, di quello che è vero per due terzi nelle mani degli enti locali, ma è di Stato e si potrebbe cedere, alla luce anche delle esperienze talvolta negative fatte con SCIP 1, SCIP 2 e SCIP 3, i veicoli con cui si cedette una parte del patrimonio immobiliare anni fa. Ora, Mariano Bella, da un certo punto di vista voi potreste però considerarvi abbastanza soddisfatti, cioè il rischio che esisteva un paio di settimane fa, e cioè che si potesse procedere immediatamente a una manovra che liberasse risorse dal punto di vista fiscale, correggendo aliquote sia delle due aliquote intermedie, quelle di maggior favore dell'IVA, sia dell'aliquota generale, sembra abbastanza allontanato nel tempo. Non voglio dire che sia scomparso, ma sembra allontanato nel tempo. Ma io... Cioè, noi sinceramente, cioè, pronto? Sì, prego. Ci abbiamo sempre creduto poco, l'abbiamo tenuta molto la storia dello scambio IRPEF-IVA, ma ci crediamo poco, nel senso che è un'operazione che sia dal punto di vista logico che dal punto di vista empirico io non riesco a capire che vantaggi potrebbe avere. Diciamo che l'aumento dell'IVA, a parità di gettito ovviamente, perché sennò parliamo di riduzione delle aliquote legali e della pressione fiscale, questo scambio a parità di gettito implicherebbe che l'aumento dei prezzi, visto che la traslazione è una cosa sicura, l'aumento dei prezzi ridurrebbe non solo il potere d'acquisto del reddito disponibile, ma anche di tutta la ricchezza messa da parte dalle famiglie, e questo ha un effetto depressivo poi sui consumi e quindi recessivo sul PIL, anche se soltanto di mezzo punto, di sedicimi di punto, ma Dio solo sa quanto sono importanti questi sedicimi. Quindi noi accogliamo con favore, diciamo, l'idea che non se ne parli più, almeno o almeno per adesso, però ecco quello che manca veramente in questa manovra, lo so che è una banalità dirlo, però è il problema della crescita, perché il ritorno a quello che diceva il collega Petrini sul problema del debito. Il problema non è tanto di ridurre l'ammontare del debito, noi dovremmo ridurre di un ventesimo quella distanza tra il 120 e il target del 60% del PIL. lo possiamo fare benissimo se potessimo tornare a crescere, non so, al 2,3% con un altro 1,5, 1,8 di inflazione. Il problema è che noi non riusciamo a tornare al 2,2, 2,3, 2,5% di crescita, quindi auspicheremmo dei piccolissimi interventi in termini di trasferimento mediante una legge annuale in cui il Parlamento stabilisse che gli eventuali maggiori proventi della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, che non si fa con i metodi di catastizzazione del reddito ma con maggiori controlli, ecco, eventuali incrementi di gettito accertato e riscosso in una frazione stabilita per legge dovrebbero andare a ridurre nell'esercizio fiscale successivo le aliquote legali. Uno direbbe: beh, ma questi cosa vuoi, sarà 1,8 miliardi, sono benefici piccoli. Ecco, noi crediamo che è finita l'epoca degli annunci, dei miracoli, delle opere faraoniche. Tanti piccoli risparmi, come può essere questo sui costi della politica annunciato due giorni fa, un 1,8 miliardi di riduzione delle aliquote legali, delle prime aliquote dell'IRPEF, tanti piccoli risparmi possono dare strategicamente un segno al paese che andiamo lentamente, con difficoltà, ma con certezza e costanza in una direzione. Per arrivare a quel momento 2015-2016 in cui bisogna fare il check della situazione di debito e deficit con un po' di crescita in più. Senza questa crescita, ma che prospettive abbiamo? Veramente allora poi bisognerà ridurre il debito pubblico di 50 miliardi l'anno in valore assoluto. E questo sì, è il nostro problema. Che cosa dice al tuo occhio di osservatore? È la fine, un altro passo alla fine di un ciclo, o c'è un segno di resipiscenza che può far sperare gli elettori del centrodestra che è un ponte verso il futuro? Ma stamattina ad oggi, diciamo, la sensazione è di una maggioranza un po' ripiegata su se stessa, incapace di fare scelte forti nell'immediato, che sposta in avanti i problemi e quindi sostanzialmente incapace di avere una prospettiva. Si potrebbe guardare il bicchiere mezzo pieno, io finora l'ho guardato mezzo vuoto, lo si potrebbe provare a guardare mezzo pieno, e cioè Tremonti ha ceduto sui tagli lineari di fatto, concedendo ai ministri di valutare ciascuno la qualità delle proprie spese da tagliare, quindi facendo una sorta di spending review all'interno dei singoli ministeri, pur lasciandosi naturalmente poi la possibilità in mano alla fine di intervenire laddove non funzionasse. E quindi questo potrebbe essere il segnale di una ritrovata, come dire, sull'orlo del baratro, di una ritrovata intesa all'interno della maggioranza per cercare di uscire da questa stupida contrapposizione, io la trovo molto stupida, fra colui che dovrebbe pensa al rigore, il ministro del tesoro, e tutti gli altri che non si capisce perché dovrebbero ballare il twist. La sensazione al momento è che il governo non sia in grado di fare scelte importanti. Ripeto, torno alle questioni che dicevo prima, non c'è alcun segno sulle privatizzazioni, sono d'accordo con te, non c'è un segno sulla questione degli immobili pubblici, e dire che è incomprensibile, visto che Giulio Tremonti ha fatto sostanzialmente fare un nuovo censimento molto accurato degli immobili pubblici in mano allo Stato all'inizio di quest'anno. Al Tesoro ci sono tutte le carte pronte, non si capisce perché nella manovra non ce n'è alcuna traccia. Ci sono alcune cose, alcuni segnali che danno la sensazione che la maggioranza, quando c'è da andare a toccare la carne viva di alcuni interessi, non riesce a intervenire. Ecco, questo secondo me è un segnale molto negativo. La stessa domanda a Roberto Petrini: dal tuo punto di vista qual è il segno politico? È un ulteriore passo verso, diciamo, la sconfitta, quella che si vede nei sondaggi da un anno e mezzo a questa parte arrivare, oppure qualche segno di resipiscenza per questa parte politica? Secondo me l'unico segno di questa manovra è l'Europa e i mercati. Naturalmente l'Italia, per quanto Calimero del nostro continente, maglia nera, discolo, è sempre meglio della Grecia o del Portogallo. Siamo naturalmente comunque nella lista nera, perché dopo la Grecia, dopo il Portogallo, dopo l'Irlanda e dopo la Spagna toccherebbe a noi. L'Europa lo sa, la Banca Centrale Europea ce lo chiede, noi viviamo viviamo in un meccanismo di moneta unica, viviamo in un continente occidentale, industriale, con economie industrializzate, avanzate, interconnesse, cioè non siamo ancora, nonostante tutto e nonostante Berlusconi, una banana republic, e quindi siamo costretti a mettere in atto, in una fase critica come questa, come hanno fatto altri paesi, una manovra che comunque deve avere un tasso di credibilità, naturalmente con tutte le critiche nel dettaglio che ho fatto prima, certo, che abbiamo fatto prima e che avete avanzato anche voi. Questa è la chiave, la cifra, il tratto distintivo di questa manovra. Sul piano politico mi muovo non con la stessa facilità come su quello economico, però mi sembra che si è giocata una partita tra Tremonti e Berlusconi. Sappiamo tutti, no, che Tremonti potrebbe aspirare ad essere il leader di un futuro governo di transizione, questa è la leggenda, come dire, del metropolitano, o comunque, come dire, l'indiscrezione, il retroscena che cammina da mesi sui giornali e probabilmente ha un forte fondamento di verità. Questo ha acuito, secondo me, anche le tensioni tra Berlusconi e Tremonti, un Berlusconi che ha subito un doppio schiaffo, quindi dal referendum e delle elezioni amministrative, quindi, come dire, siamo arrivati con tutte le condizioni per cui sul terreno della manovra si giocasse un ennesimo confronto tra il nuovo antagonista, diciamo così, all'interno del governo dopo il declino dell'astro di Fini nei confronti di Berlusconi. Stavolta l'antagonista è quello che ha i rubinetti della spesa in mano. Che cosa vogliono gli altri ministri? Certo, volevano la spending review, ma speriamo che sia una vera spending review, che non si tratti semplicemente del fatto che Tremonti abbia ceduto alle richieste dei ministri e li abbia accontentato, non so, la Carfagna piuttosto che la Brambilla, piuttosto che... Vedremo. Questo o l'altro ministro, e li abbia poi con la scusa della spending review, che stavolta viene citata proprio in uno degli articoli della bozza, no, e li abbia accontentati. Vedremo. Intanto una delle cose forse più positive è questa modifica al patto di stabilità interno, con dei limiti biennali al fatto che si possono riallocare parte delle eccedenze finanziarie non utilizzate, con un severo monitoraggio del tesoro, però almeno questo, gli è stata la Lega che ha portato a casa questa cosa, ci teneva moltissimo. Detto tutto questo, domanda secchissima invece, perché proprio pochi secondi, a Mariano Bella: se io ti dicessi anticipo al 2012 ciò che la maggioranza diceva all'inizio, Tremonti al 2013, poi è diventato 2014, cioè il meccanismo automatico di perequazione delle pensioni e l'allineamento età pensionabile settore privato a quello pubblico a 65 anni per le donne, in cambio del meccanismo di indicizzazione delle pensioni al minimo, eccetera eccetera, come hai richiesto tu mi diresti sì o no? Io direi sì, perché il discorso di collegare le pensioni all'aspettativa di vita è un fatto anche di civiltà. Noi non possiamo raccontare alle persone che versano 30 e poi prendono 70. Ecco. È un fatto di civiltà, è doloroso, ma è un fatto di civiltà, direi di sì. Ecco, e su questo sì, come vedete, tante cose in più si possono fare, si può aspirare a dei governi di transizione, li si può ispirare, l'essenziale è che però i cittadini contribuenti non si limitino a dover sospirare, come spesso capita a noi tutti. Una linea alternativa per gli elettori di centrodestra in ascolto è quello di pensare al futuro, perché, ripeto, tanti anni di delusioni, certo in presenza sempre di grandi sfide internazionali nuove, dovrebbero farvi, cari amici, riflettere molto molto molto attentamente. Ma noi facciamo solo gli osservatori. Io ringrazio Roberto Patrini, Alessandro Barbera e Mariano Bella, e a questo punto l'appuntamento è a domani, Linea Generale Radio.